viaggio con Easy Riders. Tyler, inconfondibile sigla di rientro al possesso della console da parte di Mox, felice di ritrovarvi anche per questo lunedì 19. Vi avevo annunciato, mi sembra, settimana scorsa che oggi ci sarebbe stato un ospite, un gradito ospite importante, come è solito insomma avere ad Easy Rider ospiti di un'elevata caratura. Quindi aspettatevi tra poco di sentire la voce di uno dei più grandi cantanti della storia del rock italiano. Mi riferisco a Bernardo Lanzetti, che mi raggiungerà tra pochissimi istanti qui proprio nello studio dal quale vi sto parlando. Questa è la prima notizia che mi sento di darvi. Buona serata, ovviamente è l'augurio che rivolgo a tutti. Saluto l'amico Garavelli che insomma come al solito mi precede in maniera sublime con un'ora di metallo colante. Io però oggi voglio partire, prima di parlare a lungo con questo personaggio della storia del rock italiano, vorrei partire, come spesso accade, dalla città di New York. Il programma si chiama Easy Rider e la canzone che sto per programmarvi si chiama Ghost Rider. Alcuni di voi avranno capito che si parla dei Suicide, quindi un momento di rottura, come è solito, come consuetudine dire. Il 1977 rappresenta l'esplosione del punk e i Suicide a New York erano un duo, Alan Vega e Martin Rev, che si esprimevano in una maniera inconsuetamente elettronica. Vi ricordo che esattamente 10 anni prima, cioè nel 67, in pieno Flower Power, lo stesso duo si chiamava Silver Apples e si esprimeva con un linguaggio abbastanza simile, anticipando così i tempi. Allora, Ghost Rider è il singolo dall'album omonimo, l'album d'esordio dei Suicide di New York, ed eccoli. Ghost Rider fino all'ultima frazione di secondo, potremmo definire anche questo un classico di Easy Rider. Oggettivamente in svariati anni di programmazione ve l'ho proposta più volte e mi piace rispolverare i classici. Dopo una puntata di venerdì che abbiamo dedicato all'intera redazione con ospiti proprio gli amici della redazione di Easy Rider, anche oggi insomma per dare il benvenuto all'ospite ho rispolverato un classico. Prima di farvi sentire direttamente la voce dell'amico Bernardo Lanzetti, che è già qui nei nostri studi, vi inoltre come al solito i consueti contatti per raggiungere Easy Rider, quindi 335-100-7777 come numero di SMS, mox@rockfamily.it è la nostra casella di posta elettronica che ormai ha soppiantato tutto, però potrete ancora usare per la diretta mox@radiorockfm.com. Allora, io sono molto orgoglioso e felice di dare il benvenuto ad Easy Rider a Bernardo Lanzetti. Buonasera Bernardo. Buonasera, ciao a tutti. Allora, l'occasione di averti qui è quella dell'uscita di un tuo nuovo album solista, veramente fuori da pochissimo, da poche settimane, reperibile in tutti i negozi, poi daremo anche i siti di riferimento. E la cosa che mi colpisce è già il titolo, che voglio già svelare agli ascoltatori, che è assolutamente coerente col contenuto musicale. Si chiama Eclectic Lance. Che sembra una parola tedesca, in realtà è un richiamo al tuo cognome, dico bene? Esatto, sì, c'è anche un po' un'assonanza con Eclectic Land. Esatto, esatto, dire. Quindi la terra dell'eclettismo. Sì. E effettivamente 15 brani, non voglio dire uno rigorosamente diverso dall'altro, ma quasi. Sì. Ok, quindi hai voluto un po' come dare dimostrazione, ma più che dare dimostrazione hai voluto dare sfogo al tuo estro e realizzare tantissimi linguaggi differenti all'interno di un concept solo, che è proprio quello del, correggimi se sbaglio, concept di, non so come dire, proprio di varie direzioni, no? Può, sì, può essere interpretata così la cosa. Sì, le varie direzioni in più collegate con un discorso grafico pittorico, quindi ogni brano è abbinato una composizione visiva, ecco, anche dei piccoli video realizzati con delle foto, dei fotogrammi, quindi c'è tutto un mondo particolare o singolare. Ecco, questo è uno degli aspetti che questa sera in tua presenza, insomma nel tempo che rimarrai qui al microfono di Rock FM, riusciremo a descrivere, perché ci sono tante cose legate a questa piccola opera d'arte che in questo caso è il disco di Bernardo, perché innanzitutto si presenta con una inconsueta copertina che dopo tenteremo di descrivere. Ma soprattutto sarà importante rimandarvi a quello che è il sito di Bernardo, perché nella copertina praticamente non è presente tutto questo lavoro multimediale e multiartistico che in realtà è da scoprire proprio mediante il sito, ovviamente, oltre all'ascolto relativo al CD. Allora, 15 brani, allora ne ascolteremo qualcuno, almeno due o tre. Certo. Questa sera io ne ho già presentato uno settimana scorsa, che mi è piaciuto molto, si intitola The Battle, uno degli episodi più rigorosamente rock forse esatto, dell'album. Dopo magari la risentiamo, ma io vorrei partire in realtà, se sei d'accordo, con un altro brano che non è un segreto, quindi introduco a te questo fatto, perché è la prima volta che sei ospite di Easy Rider, anche se ho avuto molti tuoi illustri colleghi. Quello che succederà in quest'oretta è che io e te giocheremo, cioè io ti farò sentire delle canzoni senza dirtele, senza annunciarle, e tu mi risponderai relativamente alle emozioni che queste canzoni ti evocheranno, ti susciteranno. D'accordo. Anche se sono nel bene e nel male, no? Quindi c'è questo rischio. E il primo pezzo che ovviamente scegliamo come estratto da Eclectic Lands, giusta la pronuncia, Eclectic Lands? Bravissimo. Si intitola Call Me Alias e vorrei che ne parlassi già un pelo prima, poi magari dopo diciamo altre due cose. Non è un brano nuovo, diciamo. Sì, questo. Non è nuovo, la scrittura melodica è dei Mangala Vallis, un brano che già abbiamo inciso ormai quasi 3 anni fa. Ecco, ricordiamo che un progetto parallelo alla tua carriera solista attuale, ancora attualmente in vita, in circolazione, è quello di questa band neo-progressive, per dare una definizione, sì, che si chiama Mangala Vallis. Esatto. Perfetto. I Mangala Vallis sono responsabili di avermi fatto tornare una certa energia e una certa poesia per la musica. Quindi questo brano ho voluto reinterpretarlo basandomi molto sulla voce e sui cori. L'ho rifatto con un arrangiamento particolare. Esatto, siccome è uno degli episodi che insomma mi ha colpito, io vorrei condividere con gli ascoltatori di Easy Rider questa cosa, e quindi è il momento di ascoltare da Eclectic Lands, questa è Call Me Alias. Un attimo, adesso la facciamo partire, c'è qualche, ecco, c'è un problema, un attimo. Allora, tenderei a cambiare il lettore, per fortuna la diretta mi consente di fruire di varia tecnologia. Allora, infatti, ho capito il problema, io. Ho capito il problema. No, dopo tra l'altro, se so che tu sei sempre pronto, magari ti chiederò di suonare qualcosa live direttamente. Ok, adesso il brano partirà come per magia. Col mio Elias, Bernardo Lanzetti. So pop we to you. Call Me Elias, la poderosa voce di Bernardo Lanzetti che è qui in mia compagnia, dal brano dal repertorio dei Mangala Vallis, rivisitato diciamo in maniera diciamo solistica in, all'interno di questo Eclectic Lanz, che è l'album che sei venuto a presentare qui a Rock FM questa sera. E allora a questo punto io approfitterei per chiederti qualcos'altro, ricordare chi sono questi Mangala Vallis, sì. Una formazione delle tue parti. Io menzionerei Gigi Cavalli Cocchi, che è un batterista che ha suonato anche non solo con Ligabue ma anche all'interno dei CSI nel loro bestseller album Tabula Rasa, esatto. Poi ha fatto dei tour con loro, quindi siamo nell'Emilia che conta, ecco, diciamo, esatto, questo. Il gruppo di Reggio Emilia, c'è anche Mirko Consolini, ci ha appena lasciato il tastierista Enzo Cattini, che abbiamo sostituito con Nuovo Elemento Matteo, e poi c'è Riccardo Sgavetti al basso e poi c'è Nicky Milazzo alla chitarra, che è ospite anche nel mio album. Esatto. Quindi è un quintetto di estrazione dichiaratamente rock, progressive rock. Sì, in realtà siamo sei, perché c'è un sestetto. Sì, un sestetto, sì, è molto ai gruppi anni 70, diciamo, rock romantico, ma anche abbastanza cattivo, devo dire. Okay. È un gruppo. Veramente mi ha fatto tornare molta voglia di cantare. Tu ti sei ritrovato in questo contesto che già esisteva, quindi hanno chiamato te. E sì, sono stato ospite nel loro primo disco. Loro hanno avuto addirittura 3 o 4 cantanti nel primo disco. E poi mi hanno chiesto di entrare in pianta stabile, cosa che ho accettato molto volentieri. Infatti io vorrei che... io mi sono reso conto anche ascoltando questo tuo lavoro, ripeto, datato 2008, quindi... Per un interprete, un cantante, uno scrittore di musica che insomma è sulla scena da un po' di decenni, quindi poi scoprirete, chi non lo dovesse sapere perché magari è giovane, scoprirà chi è Bernardo Lanzetti, perché faremo anche un minimo di retrospettiva insieme a te, Bernardo. Ok. Ho notato che la tua vocalità, volendo, è anche cresciuta, cioè rispetto a quando eri ragazzo, che già eri, dimostreremo, uno dei cantanti italiani più importanti sulla piazza, almeno negli anni 70 per un certo genere, adesso sei riuscito anche a esprimerti maggiormente, probabilmente è dovuto a una crescita tua, a degli studi tuoi. Devo dirti che anni fa ho preso paura, perché ho avuto un miglioramento nell'estensione vocale. Io ho detto, mamma mia, questo qua è il canto del cigno, poi dopo chiuderò la bottega. E invece mi sono fatto visitare e mi hanno detto no, che probabilmente io ho sempre studiato, cantato in maniera corretta, e quindi vado solo a ritrovare le cose che già avevo. Però diciamo, dall'acqua fragile, quando prendevo il si bemolle, oggi arrivo a toccare il re. Non so se qualcuno sa un po' come l'estensione. Per gli amici musicisti, insomma, che possono capire questo tipo di linguaggio, giustamente. No, quindi c'è una crescita e questa è bella, è una bella dimostrazione, che vuol dire, ragazzi, cioè magari non solo studiando ma allenandosi, sì, le cose possono solo migliorare, diciamo. E anche un briciolo, diciamo, un briciolo di felicità in quello che si fa aiuta molto. Devo incoraggiare i maschi, perché ultimamente, negli ultimi 20 anni, ci sono stati molti problemi nelle vocalità maschili, questo a livello mondiale, si dice un po' che sia problemi dell'inquinamento, altri dicono che sia un problema culturale. E le femmine non lo subiscono? Le femmine non lo subiscono perché loro non hanno il cambio di registro nella pubertà. Per cui noi invece, il maschio magari che ha una voce bianca eccezionale, poi compie 12 anni, 13 e 14 e si abbassa drasticamente. È rovinato. Quindi diciamo che il maschio deve cominciare, a un certo punto deve ricominciare tutto, invece la femmina si porta avanti tutto il bagaglio fin da quando ha iniziato. È più naturale, pensa che fortuna in questo senso. Sì. E non è un caso che molte, cioè appunto, tra le migliori voci del mondo ci siano moltissime donne, ovviamente. Va bene, allora io ripeto, prima di fare retrospettiva, concentriamoci ancora un attimo su questo Eclectic Lanz. Abbiamo parlato del titolo, abbiamo parlato di una confezione speciale, inizierei a descriverla, poi mi verrai in aiuto tu. Si tratta di una busta inconsueta, perché è una busta di stoffa estremamente colorata, quindi venatura si potrebbe richiamare alla psichedelia, un momento psichedelico, ma il bello è che ogni pezzo, mi sembra di aver capito, della tiratura è differente dall'altro, giusto? Sì, quindi sono, allora, dei tagli differenti di una stessa tela. Esatto, perché sono dei tessuti su cui sono stati stampati due miei lavori. Uno è un fotogramma di un videoclip e l'altro invece è un quadro stampati su tessuto. Questi tessuti hanno fatto degli abiti femminili, uh-huh, che sono usciti adesso, e lo stesso tessuto è stato tagliato per formare questa specie di, io la chiamo fashion jacket. Esatto. Serve per come busta per il CD, con l'etichetta che ho scritto Bernardo Lanzetti Eclectic Lanz. Esatto, quindi una copertina probabilmente anche in questo caso inedita, sì, nella storia della grafica delle copertine, che ne ha vista veramente di ogni. È una cosa che poi tenderemo a sottolineare. L'impressione che ho avuto io in questi giorni ascoltando più volte il tuo lavoro è quella che è sempre più difficile trovare innovazione nell'arte, e quindi nello specifico parlando di musica è sempre più difficile trovare nuovi spunti, nuove idee per produrre musica. È un miracolo quando questa cosa avviene, e io devo dire che, piaccia o no, in questo disco io ho riscontrato dell'originalità nel 2008, che ha veramente del miracoloso, perché c'è una moltitudine di brani. Ovviamente questa sera non avremo il tempo di ascoltarlo nella sua interezza, perché ripeto, si tratta di 15 brani, però l'impressione che si ha è di poter ascoltare qualcosa di nuovo, di fresco, ed è, ripeto, per quanto mi riguarda, una cosa abbastanza straordinaria, visto che tutto è già stato detto in 50 anni di storia del rock e non solo. Per cui volevo tributare con molta sincerità questo merito a Bernardo Lanzetti. Allora, io direi, se tu sei d'accordo, ci ascoltiamo un altro brano? Sì. Oppure vuoi dire, anzi, io prima di ascoltare un brano, rimandiamo fortemente alla questione del sito sul quale si possono trovare tutti i riferimenti del disco, che certo, ha questa splendida confezione, ma poche cose. Quindi c'è un sito che viene indicato, che è bernardolanzettifansclub.com. Esatto. Sul quale cosa succede quando si entra? Allora, quando si entra si possono avere tutti i soliti riferimenti, la biografia, la discografia, però c'è una sezione Eclectic Lanz a cui si accede prendendo una password che è stampata sulla serigrafia. Esatto. Se qualcuno rubano il CD, basta che chieda al sito, poi gliela fanno avere questa password. Entrando si hanno tutti i documenti relativi a tutto il lavoro, innanzitutto la storia di ogni brano, come è nato, perché, eccetera. Ma soprattutto c'è questa parte grafica straordinaria. C'è una parte grafica, quindi ad ogni brano è abbinato un lavoro pittorico, esatto, o grafico o fotografico a cui la musica si ispira, o a volte addirittura è iniziato dal lavoro grafico. È ispirato, infatti. Prima abbiamo avuto occasione appunto di girovagare insieme a te su questo sito, e devo dire che ci sono delle cose veramente molto belle, molto ispirate, e che completano il lavoro. Spesso io, i miei ascoltatori lo sanno, descrivo un disco come un incrocio di almeno tre forme artistiche, che è sicuramente la musica una, l'altra è la letteratura, l'altra è l'immagine, quindi la pittura piuttosto che la grafica, e questo è un classico esempio. Questo album di Bernardo è assolutamente esemplificativo a riguardo. Allora, questo qua come solista, se non sbaglio, potrebbe essere il tuo quinto album. Accidenti, non li ho contati. Come solista, proprio come Bernardo Lanzetti. Sì, a parte potrebbe tutti essere lavori... o il quinto o il sesto, il però quinto, non ce l'ho presente. Okay. Va bene, allora ascoltiamo, direi, il brano che io ho già fatto ascoltare settimana scorsa, che è un frammento di 2 minuti, ma molto bello, molto originale. Poi spiegheremo da chi è arrangiato e come hai lavorato anche a tutta, sì, la stesura del disco. The Battle, quindi la battaglia, è questo brano da Eclectic Lanz. la battaglia, la voce di Bernardo è, in questo caso è abbastanza agguerrita, no? Come sì. Il pezzo richiede. Sì, sì. Allora parliamo, che cos'è questa battaglia e come ti è venuto questo pezzo? Allora, avevo questa frase di sintetizzatore che avevo trovato in un synth vintage di 20 anni fa. Certo, e un loop. Esatto, ma il fatto, la cosa singolare è che questo qua accadeva schiacciando un tasto solo, perché io non sono tastierista. Quindi una cosa molto comoda. Ho dato questa cosa al chitarrista Alex Giallombardo, che suona con me nel gruppo degli Extra, e gli ho detto: con tale libertà bisogna fare un pezzo su una battaglia, perché dovevo fare, e poi è saltato, ma lo farò quest'anno, dovevo fare la parte di Vercingetorige Torige in un processo di Giulio Cesare. Sì. E allora ero molto dentro la battaglia, ho cominciato a prendere appunti di quello che c'è in una battaglia, quindi sangue, quindi armi, sì, desolation, eccetera eccetera. Ho preso questi appunti e alla fine, quando ho ricevuto la parte della chitarra, ho cominciato a urlare queste frasi sopra, insomma, ed è nato il testo. È nato il testo, e tanto è vero che il foglietto con cui avevo preso gli appunti è diventato l'oggetto d'arte, l'oggetto pittorico che descrive questo brano. Ho capito, quindi entrando sul sito, ripetiamolo, bernardolanzettifansclub.com, nella parte Eclectic Lanz si va a scoprire, relativamente a questa canzone breve che abbiamo appena sentito, questo foglio di appunti, sostanzialmente. Esatto. Allora, adesso io interromperei un attimo l'ascolto di questo disco nuovo, poi diamo altri riferimenti anche per la reperibilità, ovviamente, oltre ai negozi specializzati di dischi. Poi c'è anche il sito della BTF che vorrei menzionare, perché dal punto di vista della fruizione online è utile, quindi vendita per corrispondenza è sempre un punto di riferimento. Entriamo un po' nel vivo di quella che è la tua storia e partirei un po' dai quelli che probabilmente sono i primi passi artistici o quantomeno discografici. Come promesso a te, ma anche agli ascoltatori, non posso annunciare il brano che stiamo per ascoltare, ma mi limiterò a farlo girare sul piatto e vedere la tua faccia, sostanzialmente. Quindi, se mi dai il via, io faccio partire questa canzone. Ok, right on. Sei curioso di questa cosa, va bene. Astronomical lost in future. Operated like a coefficient. They become the laws of mind. Every planet is spinning along with the vibrations of our brain. Body movements to each other related. Yes. isn't that true? Una storia d'amore clandestina di una mente cosmica, Cosmic Mind FR, questo è il titolo di questa meraviglia, un brano che Bernardo ci riporta indietro di 34 anni, quindi sì, parecchio. È corretto dire che questo fosse il tuo primo gruppo, diciamo, il gruppo con cui hai esordito? Come, sì, a livello discografico, sì, anche se questo era il secondo album. Secondo album, Acqua Fragile, Mass Media Star, sì, dalla città di Parma, ovviamente. Ma volevo dire che ho avuto una rivelazione riascoltandolo adesso. Esatto. Allora, è quello che volevo sentirti dire. Allora, sono riconoscibili elementi chiari di ispirazione che possono essere i Genesis, ovviamente, Yes, ovviamente, King Crimson, ma soprattutto The Pusher degli Steppenwolf. Quindi però nella partitura, perché era tutto un altro incedere questo. Esatto, no, però nella prima parte dove ci sono i cori, sì, c'è armonicamente, c'è proprio quello. Quello adesso io non so se lo posso fare con la chitarra. Certo, in braccio alla chitarra, se a casa mi viene in mente che potrebbe essere fare una cosa così. Invece l'acqua fragile era Astronomical love's been filtered through a complicated gap and operating like a coefficient. They become the loss of mine. The Pusher Man, incredibile. Se non la spiegavi così non ci sarei mai arrivato. Ma io ci sono arrivato adesso dopo 30 e passa anni. Beh, una missione in diretta di Easy Rider, esatto, dal 74 ad oggi. Ah, forse perché la trasmissione si chiama Easy Rider. Forse per quello. Vedi quanta ispirazione. Allora, primo passo nella carriera discografica di Bernardo, quindi Acqua Fragile, una delle band appartenenti al vasto panorama del progressive italiano. Una cosa mi piace dirla, il disco che abbiamo appena sentito è un disco americano, cioè è stampato in America, quindi si può dire anche una delle poche band, a parte i grandi nomi di cui dopo parleremo, quindi ricordiamo che PFM, che Orme, che Banco sono andati all'estero, ma perché anche Acqua Fragile, che comunque facevano parte ancora del sottobosco e non dei grandi nomi, riescono ad approdare alla stampa estera nella discografia? Posso raccontare questo perché è un fatto simpatico. Certo. Allora, c'è una casa americana interessata all'Acqua Fragile, però essendo un gruppo italiano non si fida che questo gruppo veramente esista. No? Allora, il discografico decide di venire in Italia per controllare se il gruppo è esistente. In quel periodo il gruppo suonava pochissimo, c'erano pochissimi concerti. Allora ci facciamo organizzare nella discoteca di Parma da Robby Bonardi, ci facciamo organizzare un pomeriggio. Uno showcase. Sì, un pomeriggio dove andiamo a suonare e arriva questo signore dall'America, lo vanno a prendere e lo portano all'autostrada e mandiamo i nostri amici, allora se si può dire hippie, vagamente hippie, gli vanno incontro, certo, alla strada, al casello. Okay. e lo portano. Lui ascolta il gruppo, piace molto, torna in America, manda dei telex per comprare il prodotto, ma dalla Ricordi non gli rispondono mai, perché all'epoca la Ricordi nessuno sapeva l'inglese. Cazzo. E quindi non potevano rispondere al telex. Beh, questo signore era Seymour Stein, il discografico di Madonna. Allora, quando è uscito su Rolling Stone Magazine, tipo l'uomo dell'anno, manager dell'anno, ho portato questa rivista in giro per Parma ai miei amici ex hippie, ormai tutti diventati professionisti. Professionisti, no? Lavoratori. Allora ho detto: ma questo signore lo conoscete? Chiaramente lui era più ingrassato, più posato. Quelli che erano andati a prenderlo al casello. Esatto, allora ha detto: ma questo qua si mette a prendere al casello anni fa. Ecco, questa è la storia. Quindi la Ricordi ha ceduto il disco dell'Acqua Fragile molti, molti anni dopo, quando il gruppo non c'era più. Ah, quindi è una ristampa postuma questa qua? No, no, non è proprio una ristampa, è un, diciamo, è una stampa americana, print sì. In USA. Sì, sì, però diciamo l'interesse era sorto all'epoca, quindi nel 75, primavera 75, ma poi fu stampato, penso, nel 79 o nell'80. Ah, negli Stati Uniti. Bene, bene, sono in possesso di una preziosa copia in vinile, ovviamente, che suona ancora molto molto bene, come siamo abituati ad ascoltare qui a Easy Rider. Va bene, allora, primo passo, primo tassello nella carriera di Bernardo come frontman di una band. Da qui cosa succede? Succederà dell'altro, che però io non vorrei anticipare nulla. Io farei ancora, se sei d'accordo, parlare la musica. Certo. E poi esattamente come è successo adesso ci racconterai la tua. Allora, Easy Rider oggi ospite Bernardo Lanzetti. Lover collecting ladies, a poet connecting raindrops, a rock and roll star, a gander seven, a saint on a train to heaven. Enough for every problem, the silence. many good friends. Providence of illusion. Indubbiamente uno degli album più belli dell'intera discografia della, diciamolo Bernardo, della premiata Foneria Marconi. Chocolate Kings, due anni dopo, insomma, 1976, prima abbiamo ascoltato gli Acqua Fragile nel 74 e poi nel 76 Chocolate Kings vedeva il tuo ingresso ufficiale come album in studio, ovviamente come frontman, come nuovo frontman acquisito dalla PFM. No, noi abbiamo sentito adesso la versione americana, che però è uguale, che però in realtà l'album è del 75. Sì, esatto, è realizzato nel 75 esatto. E poi pubblicato in quel periodo, diciamo, la formazione è ancora quella classica, quindi con Premoli e Pagani, però ovviamente esatto. Il nucleo Givas di Ciocio e Mussida. E insomma ci sarebbero moltissime cose da raccontare relativamente a questo che è stato ed è tutt'oggi il gruppo italiano più famoso, il gruppo rock italiano più famoso nel mondo, e il passaggio di Bernardo fu assolutamente significativo e avvenne proprio grazie agli Acqua Fragile sostanzialmente. Sì, c'era molta c'era un filo diretto tra l'Acqua Fragile e la PFM, non solo loro ci avevano aiutato a fare i provini, a trovare il contratto, ma ci avevano portato in giro per tutta l'Italia a fare da spalla, come si diceva allora, esatto, a fare per su gruppo aprire, di supporto, aprire i concerti, opening act, esatto, opening act, esatto. Chiaramente poi quando arrivò il momento per il gruppo di dover trovare un cantante, sì, ecco, questo lo spiego io perché mi piace fare un po' il biografo, lo storico, no, dei gruppi italiani, e la PFM ovviamente in virtù della loro importanza hanno una storia enorme e densa di particolari. La BFM aveva già una sua fortissima credibilità all'estero, inizialmente grazie all'interessamento di Greg Lake, che li portò ad esordire in Inghilterra, poi con i primi tour americani, quello del 74, così, insomma, diventarono veramente il gruppo di riferimento del rock italiano, proprio perché erano così bravi, così originali, così convincenti dal vivo. Se non che l'unica pecca, l'unica critica che veniva mossa a questo gruppo straordinario era quello: non vi mancherebbe solo una cosa, un frontman, perché cantavano loro sostanzialmente, cioè i musicisti, e quindi nel dover trovare un frontman ci voleva uno all'altezza loro, e probabilmente la risposta era il più preparato da vari punti di vista, non ultima la conoscenza straordinaria della lingua, sì, oltre anche, che le fonti di anche se devo dire storicamente mi risulta che il primo a cui chiesero di entrare a far parte come cantante fu Eugenio Finardi, questo è uno scoop per Israele, il quale rifiutò. E allora fu chiesto a me, io chiesi una settimana di tempo per pensarci, e loro si offesero. E allora chiamarono Ivan Graziani. Ecco, questo è un po' un iter riassunto in breve, sì, no? Quindi il primo, Ivan Graziani il primo fu Finardi, probabilmente perché la mamma di Eugenio è americana, quindi sì, anche lui è un perfetto bilingue. Esatto, sapeva l'inglese come l'italiano. Sì, non ha problemi a passare da una lingua all'altra senza... cioè non si vergogna di dire rock and roll mentre sta prendendo il cappuccino, per dire, no? Che invece è un fatto, i bambini stessi si vergognano a parlare due lingue contemporaneamente, no? Per cui lui è molto dotato da questo punto di vista. Esatto, quindi prima scelta Finardi, però Finardi aveva già una sua carriera solista già avviata. Stava avviandosi proprio in quel momento, esatto. Forte, quindi non accettò. E poi questo fatto che, insomma, in certo senso loro chiedendo a te interpretarono questa mia settimana di attesa come una, insomma, si offesero, e allora chiamarono Ivan Graziani e lavorarono con loro l'album Chocolate Kings. Infatti Chocolate Kings è un album difficile perché era un po' studiato anche sulle corde di Ivan, che insomma era quasi un soprano, diciamo, molto acuta, no? Sì, la voce di Ivan Graziani. E allora niente, poi dopo sei mesi perché è passato tanto tempo, allora ebbero questo ripensamento e mi chiamarono, e io andai a Milano, ma assolutamente non pensavo ci fosse un ritorno alla proposta. Infatti partii così, avevo solo la spazzola con me perché avevo i capelli lunghi e entrai nella band il giorno stesso. Era una serata, c'era un concerto al Parco Lambro, e io un concerto tra cui dove partecipò la PFM, esatto, no, la PFM, la PFM con la formazione con la storica iniziale, no? E al pomeriggio io praticamente mi fecero fare i provini a casa di Mussida, uh-huh. A cui erano nati due gemelli, uh-huh. E quindi era una situazione dove doveva cambiare appartamento, e io cominciai a cantare, piano, sono i vicini di casa, mi cacciano via, mi fanno protesta. Allora io questo provino fu fatto cantando dentro in un cuscino. incredibile per smorzare, diciamo, la potenza della voce. Io cantai dentro in un cuscino, questo fu però superato come una marmitta, una muffle, no? E d'altronde non avevi bisogno di essere provinato, perché se ti hanno chiamato è perché conoscevano a memoria le performance tue all'interno del contesto, sì, degli Acqua Fragile, per cui dicevano va bene, abbiamo bisogno uno che abbia determinate caratteristiche, e eri l'uomo giusto nella posizione giusta, per cui ricadde subito su di te. E effettivamente poi gli album furono almeno tre album in studio con loro, sì. Partiamo da Chocolate Kings, che abbiamo rispolverato adesso, ma poi ci fu Jet Lag, anche questo realizzato sempre sia per il mercato americano che per quello europeo, quindi con doppia uscita e doppia copertina, esattamente come questo. E poi ci fu Passepartout, che fu l'ultimo insieme a loro, e poi sì, iniziasti con la tua carriera, diciamo, solista. Sì, esatto. Va bene, allora io vorrei fare dei saluti a chi scrive al 335-100-7777, un amico anonimo che ringrazia, poi Renato da Genova, che è strafelice di risentire davvero un grande artista come Bernardo Lanzetti, di cui posseggo in musica setta l'album Gente Nervosa, un disco dell'81 se ricordo bene, e di cui in un negozio di dischi di Genova ho trovato anche l'omonimo, quello col guantone da box leopardato, sempre in cassetta, che pensavo giusto acquistare. Grande Renato, buon gustaio. Un saluto a Veronica, l'amica Veronica che so apprezzare in quanto fans del progressive degli anni 70, quindi è sicuramente una puntata di suo gradimento. Allora, io adesso vorrei stimolare di nuovo i tuoi ricordi, la tua fantasia, però cambiando vagamente, non l'argomento, però cambiando un po' il gruppo, nel senso che io penso che tu abbia, come tutti, come anche Mozart aveva, delle fonti di ispirazione. E allora, se sei d'accordo, te ne proporrei una, e poi sei libero di insultarmi o di o di confermarmi il tutto. Allora, fammi però alzare il volume, se no facciamo la figura che ho fatto in apertura, e partiamo con questo pezzo che ovviamente non annuncerò. Titolo di questa bellissima, di questa perla della musica di fine anni 60, andiamo indietro di 40 anni con un disco che ho fatto un po' scoprire a Bernardo. Quindi, primo album dei Family, giusto? Sì. Voglio trovare conferma nelle tue parole, insomma, Roger Chapman. Sì, Roger Chapman è uno dei miei maestri, senz'altro, e ho avuto uno dei pochi maestri che ho avuto l'onore di conoscere, sì, perché c'è Steve Simpson, chitarrista con cui ho fatto vari lavori a Londra, suona nella sua band The Shortlist. E allora sono andato, ero a Londra una serata di compleanno in un pub, tutti suonavano e io ero al bar con Roger e continuava a darmi del whisky da bere. Io non reggo, non come reggono, diciamo, gli anglosassoni, esatto. Allora cercavo goffamente di aggiungere della soda nel mio bicchiere e mi sfuggì proprio il getto e lo colpì alla schiena. E quindi colpire il tuo idolo, il tuo maestro, no? Allora non è una gran bella figura. No, lui si girò un attimo e dico scusa, sorry, oh, rock and roll. E poi l'ho incontrato anche l'anno scorso a un concerto vicino a Bologna, a San aspetta, San Pietro Terme si chiama così? Mm-hmm, sì. Sì, e alla fine Steve ci ha presentato ancora, perché lui non ricordava di avermi già conosciuto quella serata, di dove erano tutti ubriachi. Certo. E la cosa incredibile è che lui era molto emozionato. E quindi eravamo tutti e due molto emozionati. Vabbè. Tra l'altro lui, sai, è alto, sarà 1,90 m, sì, sì, credo. Quindi. Ma io voglio cogliere occasione per dire una cosa. La gente in generale, gli appassionati di rock, magari quelli più generici, quando si parla di progressive pensano immediatamente ai classici nomi che hanno avuto un successo incredibile, un riscontro pazzesco anche in Italia, quindi in primis Genesis, Van der Graaf, Jethro Tull, sicuramente Pink Floyd, insomma tutta una serie di nomi che ha una discografia enorme e tra l'altro un riscontro di pubblico. Però non tutti sanno che i Family, questo disco che abbiamo sentito adesso per esempio con un esempio, cioè con un estratto, è del 68, quindi Chapman fu ispiratore non solo di Bernardo Lanzetti, come è plausibile vista anche l'età anagrafica e visto che comunque è italiano e quindi chi fa rock in Italia vive molto anche di riflusso dall'estero, ma addirittura di Peter Gabriel, perché questo tipo di vocalità, se uno dice ah Bernardo Lanzetti si è ispirato a Peter Gabriel, in realtà secondo me c'è molto più Chapman che non Gabriel. Poi è chiaro che Gabriel fosse in quel momento un riferimento perché funzionava, perché i Genesis erano grandiosi, però ecco, è giusto dare tributare i giusti meriti anche a chi è arrivato sempre prima, giustamente. Sono d'accordo. Va bene, allora la sorpresa che improvviseremo qui, più che altro la improvviserà Bernardo, è imbracciare una chitarra e eseguire qualcosa per noi qui a Easy Rider. Anzi, io ti lascio, poi ci spiegherai dopo che cosa, oppure dai due parole. No, posso dire qui velocemente, esatto. Farò un mio brano dell'album nuovo, cioè lo accennerò solo un giro, e poi attaccherò un brano di Bob Dylan, perché sono cantati un po' in maniera simile, siccome a fine mese Bob Dylan compie gli anni, allora ci abbiamo ovviamente. È giusto ricordarlo. Nel frattempo, scusa, prima che tu inizi al volo, al 335-100-7777 c'è un amico che ci scrive: Castel San Pietro Terme, c'ero anch'io, gran concerto, questo è l'amico Fungo che ci conferma quello che hai detto prima. Va bene Bernardo, allora sentiamo questo live direttamente negli studi di Rock FM. Two of everything. She's got two of everything. She's got two. She's got two diamonds on her ring. She's got two tone shoes. Two bars off out of the 12 bar blues. She jumps in, shaking hips, rolling eyes, crying twin tears. Two huge mirrors. She mirrors her tits. She runs twice to the ladies to redo her lips. Got bill what she needs. She ain't happy when you nick. She wants to systematically she seek after two. Two of everything. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Patty Valentine from the upper hall. She sees the bartender in a pool of blood and cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.